Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Ai magistrati si chiede, ecco, il rispetto totale delle norme di legge nello spirito della Costituzione. Ecco, questo è stato lo sforzo più grosso, di lasciare da parte ciò che pensavamo come cittadini e di invece garantire i diritti come magistrati. L'ultimo diritto che Beniamino De Idda ha dovuto far rispettare è stato quello di Eluana Englaro a morire. A lungo procuratore generale di Trieste, 72 anni, è toccato a questo magistrato di origini sarde gestire i drammatici ultimi giorni di Eluana, accolta nella clinica La Cuiete di Udine, parte del suo distretto. Giorni in cui l'Italia, commossa e turbata, si è divisa sulla storia di questa giovane donna in stato vegetativo persistente da 17 anni e sulla battaglia di suo padre, Beppino, per liberarla, volendo usare le sue stesse parole. Sono stati giorni di aspro conflitto istituzionale ai massimi vertici, un rumoroso scontro politico seguito anche negli uffici giudiziari friulani che avevano in mano una sentenza ormai definitiva con un suo protocollo per l'interruzione dell'alimentazione ad Eluana, ma che contemporaneamente assistevano alla corsa contro il tempo per l'approvazione di un decreto volto ad impedirne l'applicazione. Il rispetto di una sentenza passata in giudicato è uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto, riflette ora De Idda, secondo cui quella separazione dei poteri in quei giorni è stata in pericolo. Per quanto difficili possano essere gli impegni a cui si è chiamati, ecco, non ci dimentichiamo che quelli fanno parte integrante del lavoro del procuratore generale, che è quello appunto di coordinare le procure del distretto. Lì c'era quella di Udine impegnata in una difficilissima attuazione del protocollo, si trattava appunto di fiancheggiare, di consultare, di coordinare anche questa attività, quindi insomma credo che rientrasse completamente nelle cose che istituzionalmente quel procuratore generale deve fare. Quello sicuramente, però questa è stata una vicenda che ha coinvolto sotto tanti punti di vista, ma anche emotivo, tutte le persone, dai tanti magistrati che in questi anni se ne sono occupati, fino a tutta l'opinione politica, sullo sfondo di forti polemiche anche politiche, appunto. Sì, ecco, ma per quanto possa sembrare, ecco, ai magistrati si richiede di non farsi condizionare né dalle emozioni, nonostante che la vicenda fosse delicatissima sul piano umano, sul piano civile, sul piano sociale, ma bisogna che i magistrati non si facciano condizionare né dalle loro convinzioni personali né dalla risonanza emotiva che il caso ha poi scatenato. Quindi ai magistrati si chiede, ecco, il rispetto totale delle norme di legge nello spirito della Costituzione. Ecco, questo è stato lo sforzo più grosso, di lasciare da parte, ecco, ciò che pensavamo come cittadini e di invece garantire i diritti come magistrati. Ecco, questo mi pare che sia stato un po' il segno che ha in qualche modo improntato la vicenda di Udine e di Trieste. Negli ultimi giorni però si sono consumate anche c'era contemporaneamente anche un accidentato e polemico percorso di tipo politico con un decreto che a tappe forzate si era tentato di approvare. Voi come, diciamo, vivevate sull'altra sponda, quindi da un punto di vista giudiziario, avendo in mano una sentenza definitiva? Il nostro sforzo è stato quello di lasciare la politica doverosamente fuori dalla porta, nel senso che noi abbiamo apprezzato i possibili riflessi giuridici di quello che la politica andava elaborando. Sapevamo che occorreva garantire l'intangibilità del giudicato, perché questo è un principio fondamentale del nostro ordinamento e non potevamo pensare che fosse messo in gioco o comunque in pericolo dalle maggioranze più o meno contingenti. Quindi il problema per noi era dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, non avevamo alternative e abbiamo fino in fondo cercato di dare attuazione a questo principio fondamentale dello Stato di diritto. Che è poi il principio della separazione dei poteri. La separazione che qualche volta, ecco, poteva sembrare insomma in pericolo, comunque in discussione. Ecco, l'impegno del magistrato è quello di garantire invece i principi fondamentali, e questo della separazione dei poteri è davvero il principio cardine dello Stato di diritto. Lei nella vicenda Englaro e soprattutto in questi ultimi giorni ha sentito in pericolo questo principio della separazione dei poteri? Beh, certo, nessuna norma lo ha messo in pericolo per fortuna, quindi da questo punto di vista siamo stati sicuri di interpretare lo spirito della Costituzione e di seguire esattamente ciò che prescrivevano le norme. Avete sentito su di voi il peso di pressioni di vario tipo, sia politiche che mediatiche che di opinione pubblica? Ma sai, il mestiere del magistrato consiste soprattutto nel resistere alle pressioni. Direi che insomma sta nella natura, ecco, dell'essere giudice, dell'essere imparziale, dell'essere garante, ecco, questo di saper resistere alle pressioni da chiunque vengano, dall'interno o dall'esterno della magistratura. E i giorni in cui sono arrivati gli ispettori, c'è stato un momento in cui vi siete sentiti, diciamo, tartassati? No, l'arrivo degli ispettori è un arrivo legittimo, è una delle espressioni del potere esecutivo, quindi non direi che tutto questo è fisiologico, insomma. Ripeto, poi il chiasso che si fa qualche volta in maniera inopportuna su vicende che dovrebbero avere una maggiore discrezione, insomma, da parte di tutti, ma insomma questo chiasso poi non può condizionare il magistrato, insomma. Ecco, procuratore, noi ci eravamo sentiti nel momento in cui la procura di Udine aveva aperto una inchiesta sul caso Englaro, anche se proprio non è forse tecnicamente esatto definirlo così. Ecco, esattamente che cosa era e a questo punto che strada prenderà quel fascicolo? La procura ha ricevuto non uno ma tantissime denunce, esposti eccetera, che ha doverosamente rubricato, iscritto nel registro apposito e che è oggetto poi di un esame, ma ciò non aveva niente a che vedere con l'intangibilità del giudicato. Noi sapevamo che comunque sia c'era una sentenza definitiva e le denunzie avrebbero fatto il loro corso, ma non avrebbero potuto pregiudicare ciò che definitivamente era stato deciso dai giudici. Ecco. Che tipo di esposti erano? Più vari, alcuni giuridicamente fondati, altri assolutamente farneticanti, ma c'è di tutto in questi momenti quando l'emozione tocca il pubblico, ce n'è di tutti i tipi, dagli esibizionisti fino a quelli che dicono cose serie, insomma, quindi. Ecco, procuratore, in questi giorni, prima che soprattutto la vicenda di Eluana avesse il suo epilogo, ci sono stati anche momenti in cui sembravano circolare notizie le più diverse. Si era parlato di una richiesta di sequestro, ad esempio, della stanza di Eluana. No, posso dire che di notizie ne sono circolate tantissime, alcune infondatissime, altre solo infondate e altre completamente inventate. Questa, ad esempio, dell'ipotesi del sequestro della stanza di Eluana. No, le posso dire questo, che noi eravamo certi che non avremmo fatto nessun passo se non di fronte a qualche cosa di giuridicamente rilevante. Qualche cosa di giuridicamente rilevante non c'è stato. E il protocollo è stato attuato come era doveroso. Tutto qui, questo è veramente semplificando ma non banalizzando, questo è stato il percorso delle procure interessate. Quindi un rispetto fino all'ultima virgola del protocollo della Corte d'Appello di Milano? È questo che si chiede ai magistrati, che, ecco, di garantire al di là, ripeto, delle pressioni, delle emozioni, della pressione mediatica, di garantire che la legge faccia il suo corso e che le sentenze, quando sono pronunzie definitive, vengano rispettate. Sovranità del legislatore, noi non possiamo che inchinarci alle leggi che sono democraticamente varate dal Parlamento, quindi il legislatore però non ha ritenuto di cambiare delle norme e noi abbiamo dovuto inevitabilmente regolarci con le norme esistenti. E nei giorni di quello scontro istituzionale così forte, qualche eco, evidentemente senza entrare diciamo nel concreto delle azioni, ma da un punto di vista anche così da osservatore, come sono stati seguiti questi passaggi di questo scontro anche istituzionale? I magistrati in quei casi sono in attesa, nel senso che seguono come cittadini, come tutti, l'andamento delle cose, ma dal punto di vista poi professionale e giudiziario e giuridico, vorrei dire, sono semplicemente in attesa che qualcosa cambi, e se cambia, ripeto, è compito del magistrato di adeguarsi alle leggi. Storielle, storiacce. Lei aveva avuto modo di incontrare i vertici della clinica e poi l'equipe medica? Non ci siamo mai incontrati in questo periodo. Però appunto i suoi colleghi di Udine? I colleghi di Udine, certamente, questo incontro c'è stato, insomma, è stato un contatto continuo. Quindi. E quindi avevano avuto tutte le assicurazioni? Ah, non c'è dubbio, non solo le assicurazioni, ma abbiamo dispiegato anche i controlli, oltre non ci siamo limitati a farci rassicurare, abbiamo anche vigilato, controllato passo passo. Infatti, che il protocollo venisse applicato. Con la presenza anche di vostri consulenti? Certo. Uno dei punti di cui si è anche discusso è anche l'esistenza o meno di questi controlli e di quanto effettivamente fosse avvenuto. I magistrati non sono tuttologi, nelle materie difficili hanno bisogno dei tecnici più competenti di loro, quindi era necessario nominare i consulenti, controllare attraverso di loro e trarne poi delle conclusioni. Pare che ci siano state anche delle minacce nei confronti di medici e della clinica, insomma di tutto il personale che è stato chiamato, insomma, che è stato coinvolto in questa vicenda. Ma sa, se minacce ci sono state per iscritto, saranno oggetto di una valutazione degli organismi competenti. Io non conosco le situazioni di minacce portate verbalmente, ecco, non ne ho nessuna notizia finora. Se ci sono stati esposti che contengono minacce, tutti gli esposti sono stati sicuramente rubricati e saranno all'attenzione del pubblico ministero che si occupa di queste cose. A lei era mai capitato di occuparsi di una vicenda, non dico analoga, ma difficile quanto questa? A nessuno era finora capitato, perché questo credo sia il primo caso in Italia con queste caratteristiche di drammaticità, insomma, e anche di scontro, no? che spacca in qualche modo l'opinione pubblica. Quindi questo non era ancora capitato a nessuno. Soltanto questa sensazione, ecco, che avendo attraversato altri momenti difficili, delicati, dove le decisioni da prendere sono le più complesse, ecco, sensazione, ecco, che conservare la mente lucida, la fedeltà alla Costituzione è ancora la via maestra, ecco, per far bene il proprio mestiere. Ora che tutto è finito, anche le parole di questo magistrato, uno dei tanti che in questi 17 anni è stato chiamato ad occuparsi del caso Englaro, sembrano avere la solennità di quelle definitive, col perenne rimando alla Costituzione. Ma ora che tutto è finito, soprattutto trova la sua pace la battaglia di papà Beppino per tener fede, come ha più volte ripetuto in questo lungo calvario, al patto di sangue con la figlia, che un giorno chiese ai genitori di farle una promessa, come ci raccontò lo stesso Beppino Englaro. Lei era andato a trovare un suo amico che era nella stessa condizione sua, era venuta in famiglia molto turbata e via dicendo, dicendo: guardate, se succede una cosa del genere voi dovete intervenire e sospendere, perché per lei la morte faceva parte della vita. Ma condizioni di vita, come ha visto lei, estranee al suo modo di concepire l'esistenza, erano intollerabili e disumane, erano una barbarie per lei. Nella seconda parte dell'intervista con Beniamino De Idda, trasferito a Firenze dopo anni alla Procura Generale di Trieste e subito dopo le settimane drammatiche del caso Englaro, parliamo di altre due difficili inchieste passate sul tavolo di questo magistrato, da una bomber con un'indagine non approdata a nulla al caso delle morti per amianto nei cantieri navali veneti. Avendo attraversato altri momenti difficili, delicati, dove le decisioni da prendere sono le più complesse, ecco, la sensazione, ecco, che conservare la mente lucida, la fedeltà alla Costituzione è ancora la via maestra, ecco, per far bene il proprio mestiere. Ma lei avrebbe mai immaginato di lasciare la, immagino anche tranquilla, Procura Generale di Trieste e quindi diciamo l'area della zona, dovendo gestire un caso del genere? Vedi, qua bisogna, non esistono procure generali tranquille, solo che si voglia prendersi carico delle cose che davvero succedono, per il motivo semplice che non esistono uffici giudiziari tranquilli. Si può minimizzare, qualche volta si può ignorare, ma certamente la giustizia è sempre da sempre una tensione, ecco, in questo, in qualunque parte d'Italia. Quindi l'apparente tranquillità delle nostre province più, appunto, più tranquille è davvero solo apparente. Beniamino De Idda ha lasciato il suo ufficio di procuratore generale di Trieste per arrivare a Firenze nei giorni subito dopo la morte di Eluana Englaro nella clinica di Udine e dopo le settimane di polemiche e scontri roventi come forse non gli era mai capitato prima. Il principio cardine della separazione dei poteri è stato in pericolo, ha detto nella prima parte dell'intervista, ripercorrendo quei momenti della corsa a tappe forzate della politica per arrivare ad un decreto che bloccasse la sentenza definitiva che autorizzava l'interruzione dell'alimentazione per Eluana. Ma la Costituzione, ha ripetuto più volte De Idda, è stato sempre il nostro punto di riferimento. Anche in mezzo a pressioni, emozioni e polemiche come quelle che non molto tempo fa coinvolsero quegli stessi uffici giudiziari per l'inchiesta Una Bomber, con le accuse ipotizzate e poi cadute nei confronti dell'unico indagato, l'ingegnere Elvo Zornit, mentre sotto inchiesta finiva un consulente della procura per presunta manomissione. È stato un brutto colpo all'immagine della giustizia, ammette De Idda. E appunto, dico, non c'è niente di tranquillo in tutto questo, così come per mesi la Procura Generale è stata impegnata per esempio nelle morti per amianto, centinaia di morti per amianto nei cantieri navali di Monfalcone, quindi lei pensi che anche quella è un'emergenza gravissima, quindi se si vuol fare, insomma, negli uffici giudiziari c'è sempre da fare. Assolutamente sì. Ecco, e della vicenda Una Bomber, procuratore, che si è chiusa con una richiesta di archiviazione nei confronti dell'unico indagato. Appunto, il procuratore generale di Trieste, anche se ora è a Firenze, riguardando e ripensando a quell'inchiesta, cosa dice? Ma che è una sconfitta della giustizia, perché, e non tanto perché non si è scoperto ancora il colpevole di gravissimi episodi terroristici, ma soprattutto per il modo con cui è maturata l'archiviazione, per le vicende che l'hanno accompagnata e che sono state un colpo per l'immagine della giustizia nel nostro paese. Lei pensa che si riuscirà mai a individuare una bomber? Speriamolo davvero, certo che finora non siamo arrivati molto in là. Anche con un contorno, diciamo, brutto per gli uffici inquirenti, con un consulente. È stata una caduta che, ripeto, ha colpito molto me, ma ha colpito molto anche l'opinione pubblica. Insomma, purtroppo quando queste cose accadono bisogna avere la forza di riprendersi e di andare avanti. L'unico indagato, Zornita, all'epoca disse che forse era dovuto anche ad una pressione per individuare un responsabile. Ma queste sono sciocchezze. Le procure cercano di individuare davvero il responsabile, non indicano a caso il responsabile. Da un caso all'altro, a fine 2008 l'allora procuratore generale di Trieste, De Idda, ha portato a conclusione la maxi inchiesta sui morti per amianto nei cantieri di Monfalcone. 42 vittime solo tra il 99 e il 2007, una strage per cui la procura mette sotto accusa per omicidio 14 dirigenti della Fincantieri. C'era un uso spregiudicato dell'amianto che è andato avanti per decenni nel nostro paese, senza nessuna precauzione, nemmeno quando era ormai nota la pericolosità dell'amianto, i suoi effetti oncogeni. E poi purtroppo c'è stata un'inerzia decennale degli uffici giudiziari che ha indotto il procuratore generale ad avocare a sé l'indagine. Questi sono gli elementi più gravi di questa tragedia, che le morti per amianto nel Friuli Venezia Giulia, insomma, soprattutto quelli dei cantieri navali. Una inerzia dovuta a cosa? Al fatto che i processi non si facevano, perché sono processi delicati, difficili, e forse è mancata anche la sensibilità di capire che su queste materie i giudici devono andare a fondo e rendere giustizia in tempi ragionevoli.